Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Sperando di trovarla sola, Vronsky, come faceva sempre per attirare meno l'attenzione su di sé, scese dalla carrozza prima di attraversare il ponticello e si incamminò a piedi. Non si recò all'ingresso che dava sulla strada, ma entrò nel cortile. Stava già entrando, poggiando tutto il piede per non far rumore sugli scalini inclinati della terrazza, quando ad un tratto si ricordò quel che sempre dimenticava e che costituiva l'aspetto più tormentoso del suo rapporto con lei. Il figlio, con quel suo sguardo interrogativo e a quel che gli pareva ostile. Quando c'era lui, né Vronsky né Anna non solo non si permettevano di parlare di qualcosa che non avrebbero potuto ripetere davanti a tutti, ma si guardavano dall'alludere a qualsiasi cosa che il ragazzo non avrebbe comunque capito. Non si erano messi d'accordo su questo, ma si era stabilito da sé. Avrebbero ritenuto un'offesa a se stessi ingannare quel ragazzo. Davanti a lui parlavano come conoscenti. Nonostante questa prudenza, Vronsky spesso vedeva lo sguardo attento e perplesso del ragazzo fisso su di sé e una strana timidezza, un'instabilità, ora affetto, ora freddezza e ritrosia del ragazzo nei suoi riguardi. Come se il ragazzo sentisse che fra quell'uomo e sua madre c'era un rapporto importante, il cui significato egli non poteva comprendere. Che cosa vuol dire questo? Chi è lui? Come bisogna volergli bene? Se io non capisco, la colpa è mia, oppure sono un ragazzo stupido o cattivo, pensava il ragazzo, e da ciò derivava la sua espressione indagatrice, interrogativa, in parte ostile, e la timidezza e l'instabilità che tanto imbarazzavano Vronsky. La presenza di questo ragazzo suscitava sempre e immancabilmente in Vronsky quella strana sensazione di disgusto senza motivo che egli provava negli ultimi tempi. La presenza di questo ragazzo suscitava in Vronsky e in Anna una sensazione simile alla sensazione di un navigatore, il quale vede dalla bussola che la direzione in cui velocemente si muove diverge di molto da quella dovuta, ma sa che fermare il movimento non è nelle sue forze, che ogni minuto lo allontana sempre più dalla direzione dovuta e che confessare a se stesso la deviazione equivale a confessare la propria rovina. Questa volta Seriosa non era a casa. E lei era completamente sola e stava seduta sulla terrazza aspettando il ritorno del figlio, che era uscito a passeggio ed era stato sorpreso dalla pioggia. Aveva mandato un cameriere e una ragazza a cercarlo e stava aspettando. La bellezza di tutta la sua figura, della testa, del collo, delle mani, ogni volta colpiva Vronsky come una cosa inaspettata. Egli si fermò guardandola con rapimento. Ma non appena volle fare un passo per avvicinarsi a lei, essa sentì subito il suo avvicinarsi e rivolse verso di lui il viso accaldato. «Che cosa vi è successo? Non state bene?» disse lui in francese, avvicinandosi. Avrebbe voluto correre da lei, ma ricordandosi che potevano esserci estranei, si voltò verso la porta del balcone e arrossì, come arrossiva ogni volta che sentiva di dover temere e guardarsi attorno. «No, sto bene», rispose alzandosi e stringendo con forza la mano tesa di lui. «Non aspettavo te». «Dio mio, che mani fredde!» disse lui. «Mi hai spaventata. Sono sola e aspetto Seriosa. È andato a passeggio. Arriveranno di qua». «Dirlo o non dirlo?» pensava essa, guardandolo negli occhi tranquilli e carezzevoli. «È così felice, così preso dalle sue corse, che non lo capirà come è necessario. Non capirà tutta l'importanza per noi di questo avvenimento. Vedo che è successo qualcosa. Posso forse essere un istante tranquillo sapendo che voi avete un dolore che io non condivido? Oh, ditemi, per amor di Dio!» ripeté Vronsky in modo supplichevole. «Sì, non gli perdonerei se non capisse tutto il significato di questa cosa. Meglio non parlare. Perché metterlo alla prova?» pensava lei, continuando a guardarlo nello stesso modo. «Oh, per amor di Dio!» ripeté lui prendendole la mano. «Devo dirlo?» «Sì, sì, sì!» «Sono incinta», disse lei piano e lentamente. Toda uma Egli impallidì. Avrebbe voluto dire qualcosa, ma si fermò. Abbandonò la mano di lei e abbassò la testa. Oh, sì, ha capito tutta l'importanza di questo avvenimento, pensò Anna, e gli strinse la mano con gratitudine. Ma sbagliava pensando che egli capisse il significato della notizia così come la capiva lei, donna. A quella notizia, con decuplicata forza, egli aveva sentito un attacco di quella strana sensazione di disgusto verso qualcosa che l'assaliva negli ultimi tempi. Ma nello stesso tempo aveva capito che la crisi che desiderava adesso era giunta, che non si poteva più nascondere la cosa al marito e in un modo o nell'altro era necessario spezzare quella situazione innaturale. Oltre a questo, però, gli si era fisicamente comunicata l'agitazione di lei. Egli la guardò con uno sguardo intenerito. Docile, le baciò la mano, si alzò e si mise a camminare in silenzio per la terrazza. «Sì», disse avvicinandosi a lei in modo deciso. «Né io né voi abbiamo considerato i nostri rapporti come un gioco e adesso il nostro destino è deciso. È necessario finirla con la menzogna in cui viviamo», disse guardandosi intorno. «Finirla? Ma come finirla, Alexei?» disse lei piano. Ora si era calmata e il suo volto splendeva in un tenero sorriso. «Lasciare il marito e unire la nostra vita». «È già unita anche così», rispose lei in modo appena percettibile. «Sì, ma del tutto, del tutto!» «Ma come, Alexei? Insegnami, come?» disse lei con triste ironia verso la propria situazione senza via d'uscita. «C'è forse una via d'uscita da una situazione simile? Non sono forse moglie di mio marito?» «Da ogni situazione c'è una via d'uscita. Bisogna decidersi. Qualsiasi cosa è meglio della situazione in cui tu vivi. Io vedo come ti tormenti per tutto, e per il mondo, e per il figlio, e per il marito. Ah no, non per mio marito», disse essa con un sorriso schietto. «Non so. A lui non penso. Lui non c'è». «Oh, tu non parli con sincerità. Io ti conosco. Tu ti tormenti anche per lui». «Ma lui neppure lo sa», disse lei. E a un tratto un vivo rossore cominciò ad apparirle sul viso. Le guance, la fronte, il collo arrossirono e lacrime di vergogna le spuntarono sugli occhi. Ma non parliamo di lui. Vronsky aveva già tentato varie volte, anche se non in modo così deciso come adesso, di indurla ad esaminare la propria situazione. E ogni volta si era imbattuto in quella superficialità e leggerezza di giudizi con cui ora lei aveva risposto al suo invito. Come se in ciò vi fosse stato qualcosa che lei non poteva o non voleva chiarire a se stessa. come se ogni volta che cominciava a parlare di ciò, lei, la vera Anna, si ritirasse chissà dove in se stessa e venisse fuori un'altra donna, strana, a lui estranea, che egli non amava e piuttosto temeva e che gli opponeva resistenza. Ma quel giorno egli decise di dir tutto, sino in fondo. «Che lui lo sappia o no», disse Vronsky con il suo abituale tono fermo e tranquillo, «che lui lo sappia o no, questo a noi non importa. Noi non possiamo, voi non potete rimanere così, specialmente adesso». «Che cosa bisogna fare, secondo voi?» domandò essa, sempre con la stessa leggera ironia. A lei, che aveva tanto temuto che lui prendesse alla leggera la sua gravidanza, ora seccava che lui, da questo, deducesse la necessità di intraprendere qualcosa. Rivelargli tutto e lasciarlo. Fuggire, allora? E perché non fuggire? Io non vedo la possibilità di continuare così. Non per me, vedo che voi soffrite. Ah sì, fuggire e diventare la vostra amante, disse Anna con astio. Anna, proferì egli con rimprovero e tenerezza. Ah sì, diventare la vostra amante e rovinare tutto. Avrebbe voluto dire mio figlio, ma non poté pronunciare questa parola. Il suo sguardo si accese del fuoco che egli conosceva. Con un gesto rapido, essa sollevò le sue belle mani coperte di anelli, gli prese la testa, lo guardò con un lungo sguardo e, avvicinando il proprio viso con le labbra aperte e sorridenti, baciò rapidamente la bocca ed entrambi gli occhi di lui e lo respinse. Voleva andare, ma egli la trattenne. «Quando?» proferì in un bisbiglio, guardandola estatico. «Oggi è luna», mormorò lei e con un profondo sospiro andò incontro al figlio con il suo passo leggero e svelto. Quel giorno c'erano varie corse. La prima era riservata agli ufficiali della guardia a cavallo. Poi c'era quella sulle due verste per ufficiali, quella su quattro verste e infine la corsa in cui correva Vronsky. Arrivò da Briansky, rimase da lui 5 minuti e galoppò indietro. Questa corsa veloce lo calmò. Tutto ciò che di gravoso c'era nei suoi rapporti con Anna, tutta l'indeterminatezza rimasta dopo la loro conversazione, tutto adesso era saltato via dalla sua testa. Con piacere ed emozione adesso pensava alla corsa, al fatto che comunque sarebbe giunto in tempo. E di tanto in tanto l'attesa della felicità dell'appuntamento della prossima notte divampava con vivida luce nella sua immaginazione. La sensazione della corsa imminente si impadroniva sempre più di lui, a mano che entrava in un'atmosfera di gara, sorpassando le vetture di coloro che si recavano all'ippodromo dalle ville e da Pietroburgo. Dopo essersi cambiato senza fretta, mai si affrettava e perdeva il dominio di sé, Vronsky ordinò di andare alle baracche. Dalle baracche già poteva vedere il mare di carrozze, di pedoni, di soldati che circondavano l'ippodromo e le tribune formicolanti di gente. Probabilmente stava svolgendosi la seconda corsa perché, nel momento in cui egli entrò nella baracca, sentì la campanella. Avvicinandosi alla scuderia, si imbatté in Gladiator, il sauro di Maciotin, che conducevano al campo con una gualdrappa arancione e azzurra e con le orecchie, che parevano enormi, orlate di azzurro. «Dov'è Cord?» domandò allo stalliere. «Nella scuderia sta sellando!» Nel box aperto, Fru Fru era già sellata. Stavano per portarla fuori. «Non ho fatto tardi!» «All right, all right! Tutto in ordine, tutto in ordine!» proferì l'inglese. «Non siate agitato!» Egli avrebbe voluto avvicinarsi alla sua cavalla, ma di nuovo lo trattenne un conoscente. «Ah, ecco Karenin!» gli disse il conoscente con il quale conversava. «Cerca sua moglie e lei è in mezzo alla tribuna. Non l'avete vista?» «No, non l'ho vista», rispose Vronsky, e senza neppure voltarsi a guardare verso la tribuna nella quale gli avevano indicato la Karenina, si avvicinò alla propria cavalla. Non fece in tempo a guardare la sella sulla quale avrebbe voluto dare certi suoi ordini che i corridori vennero chiamati alla tribuna per l'estrazione dei numeri e la partenza. Con i visi seri, severi e molti anche pallidi, 17 ufficiali si raccolsero presso la tribuna ed estrassero i numeri. A Vronsky toccò il numero 7. Si udì: «In sella!» «Non abbiate fretta», disse Cord a Vronsky, «e ricordate una cosa: non trattenetela e non sollecitatela agli ostacoli, lasciatela fare come vuole». «Bene, bene», disse Vronsky afferrando le redini, «se è possibile, conducete la corsa, ma non disperate sino all'ultimo momento, anche se foste in coda». Gli ufficiali che correvano erano 17. La corsa doveva svolgersi su un gran cerchio di forma ellittica di 4 verste davanti alla tribuna. Sul circuito erano stati disposti 9 ostacoli. Per 3 volte i cavalieri si allinearono, ma ogni volta il cavallo di qualcuno sopravanzava gli altri e bisognava ricominciare da capo. Il colonnello Sestrin, preposto a dare il via, cominciava già ad arrabbiarsi, quando finalmente, allorché gridò per la 4ª volta «via», i cavalieri partirono. Agitata e troppo nervosa, Fru Fru perse il primo momento e vari cavalli si mossero prima di lei. Ma ancor prima d'arrivare alla riviera, trattenendo con tutte le forze la cavalla che puntava sulle redini, Vronsky ne sorpassò 3 con facilità e davanti a lui restò solamente il sauro Gladiator di Maciotin, che alzava con regolarità e leggerezza la groppa proprio davanti a Vronsky e ancor più innanzi la splendida Diana, con sopra il più morto che vivo Kuzovlev. Nei primi momenti Vronsky ancora non era padrone né di se stesso né del cavallo. Sino al primo ostacolo, la riviera, non poté dirigerne i movimenti. Gladiator e Diana si avvicinarono insieme e quasi nello stesso istante, hop hop, si sollevarono sopra la riviera e volarono dall'altra parte. Come volando si librò dietro di loro Fru Fru, ma nello stesso momento in cui Vronsky si sentì in aria, a un tratto vide, quasi sotto le zampe della sua cavalla, Kuzovlev che si dibatteva insieme con Diana dall'altra parte del fiume. Kuzovlev aveva lasciato andare le briglie dopo il salto e il cavallo era capitombolato con lui. Questi particolari Vronsky li venne a sapere soltanto in seguito, mentre adesso vedeva soltanto che proprio dove si sarebbero posate le zampe di Fru Fru poteva capitare una zampa o la testa di Diana. Ma Fru Fru, come una gatta che cada, fece nel salto uno sforzo con le zampe e la schiena e, superato il cavallo, galoppò oltre. The well-to-do up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and colored collars, white flats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon a bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on a Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last 2 bits, putting on a Ritz. Thank you. when you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits? Putting on the Ritz. Tango gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits. And how they're putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll defend their jubilee and see them spend their last two bits. Just putting on the Ritz. Nello stesso istante in cui Vronsky pensò che ora bisognava sorpassare Maciotin, Fru Fru stessa, avendo già capito ciò che egli pensava, senza nessun incitamento, accelerò notevolmente e cominciò ad avvicinarsi a Maciotin dalla parte più conveniente, dalla parte della corda. Maciotin però non cedeva la corda. Vronsky aveva appena pensato che lo si poteva oltrepassare anche dall'esterno, quando Fru Fru cambiò galoppo e cominciò ad oltrepassare proprio in questo modo. La spalla di Fru Fru, che aveva già cominciato a scurirsi per il sudore, si allineò alla groppa di Gladiator. Per un poco galopparono insieme. Ma prima dell'ostacolo al quale si stavano avvicinando, Vronsky, per non fare il giro largo, cominciò a lavorare di redini e velocemente sorpassò Maciotin proprio sulla scarpata. Vide di sfuggita il viso di lui insaccherato di fango. Gli parve persino che gli sorridesse. Aveva oltrepassato Maciotin, ma lo sentì subito dietro di sé, mentre udiva senza interruzione, proprio dietro la schiena, il galoppo eguale e il respiro mozzato, ancora del tutto fresco, delle narici di Gladiator. I due ostacoli successivi, il fosso e la barriera, furono sorpassati facilmente. Ma Vronsky cominciò a udire più vicini l'ansito e il galoppo di Gladiator. Dette il via alla cavalla e sentì con gioia che essa accelerava con facilità l'andatura. Il rumore degli zoccoli di Gladiator cominciò di nuovo a udirsi alla distanza di prima. Vronsky conduceva la corsa, proprio quel che voleva fare e che gli aveva consigliato Cord. Adesso era sicuro del successo. Rimaneva solo l'ultimo fossato pieno d'acqua, largo circa 1,50 m. Vronsky non lo guardava neppure, ma desiderando arrivare di gran lunga primo, si mise a lavorar di redini, alzando e abbassando la testa della cavalla in cadenza con il galoppo. Essa sorvolò il fossato come se nemmeno l'avesse notato. Lo sorvolò come un uccello, ma in quello stesso attimo, con suo terrore, Vronsky sentì che, non essendo stato capace di secondare il movimento della cavalla, egli, senza nemmeno capire come, aveva fatto un movimento orribile e imperdonabile abbassandosi sulla sella. A un tratto la sua posizione mutò ed egli capì che era successo qualcosa di terribile. Non poteva ancora rendersi conto di ciò che era successo, che già balenarono accanto a lui le bianche zampe dello stallone Sauro e Maciotin gli passò di fianco al gran galoppo. Vronsky toccò terra con una gamba e la sua cavalla si abbatté su quella gamba. Fece appena in tempo a tirar fuori la gamba che essa cadde su un fianco, rantolando pesantemente e facendo vani sforzi con il suo sottile collo sudato per sollevarsi. Come un uccello ferito a morte, si dibatteva a terra ai suoi piedi. Il goffo movimento fatto da Vronsky le aveva spezzato la schiena. Con la faccia stravolta dalla passione, pallido e con la mascella inferiore che sussultava, Vronsky la colpì con il tacco nel ventre e ricominciò a tirarla per le redini. Ma essa non si muoveva e, ficcando il muso nel terreno, guardava il padrone con il suo sguardo parlante. «Ah!» muggì Vronsky afferrandosi la testa. «Ah, che ho fatto! E la corsa è perduta! E la colpa è mia, vergognosa, imperdonabile! E questa povera, cara cavalla rovinata! Oh, che ho fatto!» Gente, un dottore e un infermiere, gli ufficiali del suo reggimento correvano verso di lui. Per sua disgrazia, sentiva di essere incolume e sano. La cavalla si era rotta la schiena e fu deciso di abbatterla. Vronsky non poteva rispondere alle domande, non poteva parlare con nessuno. Si voltò e, senza raccogliere il berretto che gli era volato via dalla testa, si allontanò dall'ippodromo senza sapere neppure dove. Si sentiva infelice. Per la prima volta nella sua vita sperimentava la sventura più grave, una sventura irreparabile e della quale aveva lui la colpa. Yasvin lo raggiunse con il berretto, lo accompagnò sino a casa e mezz'ora dopo Vronsky ritornò in sé. Ma il ricordo di quella corsa rimase a lungo nella sua anima, come il ricordo più penoso e tormentoso della sua vita. Elsa Galvato ha letto Anna Karenina di Lev Tolstoj. Riduzione del testo di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it